Giulie, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a un'autentica leggenda NBA, una delle migliori ali piccole tutti i tempi, tra i primi 10 sicuri, che purtroppo ci ha lasciato esattamente 3 anni fa. Spegnerebbe 90 candeline, il grande Elgin Baylor. Buongiorno a tutti. Amici sportivi e non sportivi, si parte con l'imprevedibile martedì e il Move to Groove di quest'oggi e un protagonista. Grazie Paolo, buongiorno a te per questa prima palla a due dove il protagonista è Elgin Baylor, considerato uno tra i più grandi giocatori di tutti i tempi. Mi permetto di aggiungere di un proto basket. Siamo ancora prima della pre-rivoluzione cestistica. Sarà negli anni 50. L'inizio della carriera di Elgin Baylor, arriverà ufficialmente nel primo anno di NBA, sarà una delle scelte più importanti per quei percorsi cestistici che lo vedranno nel 58-59, già un fondamentale rookie per i Minneapolis Lakers. Ma come, non è Los Angeles? No, prima la sede dei lacustri era in Minneapolis, la terra dei laghi, e per quello che i Lakers hanno questo nickname mantenuto anche dopo il trasferimento in California, inizialmente Minneapolis Lakers. Ironia della sorte, Elgin Baylor non vincerà mai un titolo NBA, vi posso assicurare, giocatore fortissimo con caratteristiche offensive inarrestabili. La specificità del suo essere realizzatore, palleggio, arresto e tiro. Il tempo nel prendere il primo passo per concludere in palleggio, arresto e tiro, veramente mortifero. Allo stesso tempo un grande atletismo in campo aperto, 1,96-1,97 alla piccola, di forza fisica notevole, sarà una presenza fondamentale, ma ricordo che era un altro basket, è certamente meglio di quello attuale, seppur proto basket, da me così definito. È un passaggio Elgin Baylor tra il proto basket e la pre-rivoluzione cestistica. Elgin Baylor, grande presenza anche sotto le plance, porterà delle stagioni con 14 rimbalzi di media partita per un'ala piccola. Considerato uno dei giocatori più forti della storia NBA a non aver mai vinto un titolo, penso abbia disputato 8 finali NBA. Purtroppo non riuscirà mai a vincere il titolo. Pensate che dai Lakers e dall'NBA stessa, a conclusione della carriera, gli verrà consegnato lo stesso ad honorem, un anello che lui accoglierà in maniera così agrodolce, ecco, e beh, è comprensibile del resto, no? Studio e sport, perché? Perché questo grande talento fu immediatamente visionato dagli scout dei Lakers. Lo scelgono come prima scelta assoluta nel 58, media di 25 punti a partita, 55 in una singola gara e pensate 15 rimbalzi. Arriva a essere il rookie of the year. Nei playoff fu in grado di guidare i Lakers fino alla finale NBA, dove vennero battuti 4-0 da Boston. Da lì l'origine della storica rivalità fra Celtics e Lakers. Non riuscirono nemmeno a portare il titolo con l'arrivo di un fortissimo, seppur a fine carriera, Wilt Chamberlain. Per cui immaginate una formazione con Jerry West, Elgin Baylor e Wilt Chamberlain. Cosa... Scuola, sport, studio, didattica, scuola. Perché? Perché con Elgin Baylor? Perché il suo curriculum scolastico negativo gli impedì di trovare facilmente spazio nel college, fino a quando un amico, un amico molto attento, molto appassionato, non riuscì a procurargli una borsa di studio per un college in Idaho, dove avrebbe dovuto giocare a basket e a football. L'anno dopo, a causa di un taglio alle borse di studio, Elgin Baylor, dopo aver saltato un anno di studi giocando in una squadra amatoriale, venne accolto poi nella Seattle University. Pensate che con una carriera di studio veramente in difficoltà, veramente difficile, arriva a essere, sapete anche il legame che c'è tra college e percorsi sportivi negli Stati Uniti d'America. Ecco, tutto ciò per dire, ok, lui ce l'ha fatta, attenzione, ma Elgin Baylor è uno! Per cui lo studio prima di tutto. Ho partecipato a un incontro tra grandi atleti polesani che presentavano libri, presentavano esperienze oltre al pubblico, e per i motivi di riflessioni che ho portato è la relazione tra lo studio e lo sport, soprattutto nei settori giovanili. Mi aspettavo una risposta perentoria. Lo studio viene prima di tutto. Purtroppo è un mio parere personale, non è andata esattamente così. Bisogna conciliare, bisogna capire il senso dell'abnegazione e del sacrificio. Io capisco tutto, però mi rifaccio all'epoca in cui io ero nel settore giovanile. Riuscire a conciliare tutto era quasi impossibile. Complice anche quella che è una realtà societaria che a parole è attentissima. Ah, lo studio è fondamentale, lo studio, mi raccomando, prima dell'allenamento, insomma, a parole tutti bravissimi. Poi nei fatti non ti davano certo la possibilità di dedicare tempo allo studio, che so, magari mancando a un allenamento. Ecco, sarebbe già importante avere questa disponibilità. Sto parlando sempre di un livello professionistico. Quindi il mio consiglio è avvicinarsi a delle società, e magari adesso ce ne sono, non ho dubbi, che danno a questo aspetto una precedenza fondamentale. Ebbene sì, a parole erano tutti molto attenti quando si facevano riunioni. Mi raccomando, anche a casa dovete riportare un rendimento scolastico, un'applicazione con la scuola, perché ecco punto, ecco il massimo impegno era questo. Poi ovviamente quello che era il percorso accademico di ogni atleta, belle difficoltà nell'impegno quotidiano d'allenamento che comprendevano anche più di un allenamento giornaliero, per cui non è immediato riuscire a conciliare le due cose. Alcune affermazioni mi hanno un po' così indispettito anche da parte di allenatori, dirò il peccato ma non il peccatore, quando rientriamo da allenatori che rispetto tantissimo tuttora dal punto di vista dell'applicazione sportiva. Per quanto riguarda la relazione con lo studio, esatto, Willy, lui è un pioniere. Lui è il primo forse giocatore tutti i tempi per elevazione atletismo, proprio quello che ha spianato la strada ai grandi saltatori che arriveranno poi più tardi nella NBA. Come diceva Bob Cousy, lui era in grado di saltare, prendersi una tazzina di caffè e poi scendere e realizzare. Free as the wind. 6-7 finali NBA, vada a memoria, forse essere quello che ne ha giocati di più senza mai vincere un anello, sì. Neanche con l'arrivo del grande Will Chamberlain, accostato negli anni 60, un po' negli anni 70 contro la dinastia Boston Celtics, non c'è niente da fare, non si vince. Arrivano nel 72 alla finale NBA, vincono i Lakers, quella contro i New York Knicks. Ma lui era infortunato durante la stagione e quindi decise di ritirarsi a stagione in corso senza arrivare ai playoff. quindi non arrivando al fatidico anello che però i Lakers gliene fecero uno commemorativo. When I'm sad and feeling down, you always come for me. When I'm sad and feeling down, you always come for me. To know you is to love you, yeah. It's to see you being free as the wind. For the power. Sì, infatti Paolo, grazie per queste precisazioni più dettagliate a proposito di Elgin Baylor dai Minneapolis Lakers, poi saranno Los Angeles Lakers. Un pessimo studente, anzi da ultimo banco. Però ricordiamo che di Elgin Baylor ce n'è uno ed è facile, con un ragazzo che fa parte delle giovanili di una prima squadra nella massima serie, essere illuso, essere così lusingato dal fatto di poter giocare in un contesto così prezioso, pregevole, ma anche impegnativo, tremendamente impegnativo. E per quanto riguarda la quantità di allenamenti, anche dal punto di vista mentale, quindi magari avvicinarsi a società che invece hanno come diktat lo studio prima di tutto, è il consiglio che io personalmente porto. All right. Portato sonorità dalla California, da Los Angeles, dalla Bay Area, visto la presenza del grande Baylor all'interno di tale stato con i Los Angeles. Beh, il tema è studio e sport per quanto riguarda l'impegno della parte juniores. Adesso hanno cambiato tutte le denominazioni dei settori e delle categorie negli istituti superiori, con compagni che a loro volta partecipavano già, come ho partecipato io, all'aspetto di prima squadra, ma c'era già chi ne aveva una presenza più costante: Andrea Cessel, Andrea Dall'Amora. Trasferta di domenica, non so, a Reggio Calabria, e poi lunedì bisogna andare in classe, e un allenatore, parlando, disse: non è giusto, è inconcepibile che debba andare a scuola, che possa avere un compito in classe, una verifica o un'interrogazione. No, non è inconcepibile, assolutamente no. Bisogna mettere regolamenti per cui gli atleti hanno attenzioni da parte dei docenti per quanto riguarda il programma di studio. Io non sono d'accordo, assolutamente, pur rendendomi conto del grandissimo impegno. Non va modificato un piano di studio, poi certo questo è un caso eccezionale e magari certo vi sarà un recupero, ma non va salvaguardato nella maniera totale, non devono esserci aspetti di cambiamento pragmatico all'interno del percorso delle lezioni per un giovane atleta. Questo è un motivo sì di assenza se è stato in trasferta con la prima squadra a Reggio Calabria, avrà modo di recuperare, quello è un altro discorso, non che nell'immediato, ok, deve avere dei vantaggi. Leave your body on the killing floor. Don't dream and be free once more. Ah beh, lo promuovono, tanto gioca in Serie A. Ecco, non voglio sentire questi discorsi, E a breve andremo in pubblicità per questa prima parte del Move to Groove che sta volgendo al termine, dedicata a chi non ha avuto certamente risultati scolastici eccelsi, anzi un po' preso all'ultimo momento con un amico che ha così consigliato e portato la borsa di studio per una piccola università. Per meriti sportivi poi il percorso di Elgin Baylor sarà con uno trasferimento all'università di Seattle, ma tendenzialmente, ripeto, Elgin Baylor è stato uno, Quindi capisco le sirene di essere un atleta, di impegno, ci mancherebbe togliere le illusioni, non ci penso minimamente, anzi tutt'altro, ma invito anche, difficilissimo, alla lucidità. Fortunatamente penso che sia cambiato qualcosa da quello che vedo nei settori giovanili, perché è fondamentale e, come ho detto e ribadisco, lo studio prima di tutto. A tra poco avremo un'altra palla 2 e un altro protagonista, sempre, seppur con accezione diversa, avrà motivo per portarci in approfondimento a proposito di aspetti accademici. Willy, perché oggi, ma nel lontano 1982, ci sarà una trade che infiammerà l'NBA. Moses Malone passa dagli Houston Rockets ai Philadelphia 76ers in cambio del lungo Caldwell Jones ed una futura prima scelta che si rivelerà più tardi in Rodney McRae. Ingaggio stellare, una trade importante, Moses Malone. Sapete qual era il nickname, il soprannome del grande Moses Malone? Il presidente del consiglio, cioè the chairman of the board, esattamente come la formazione che stiamo ascoltando. Soul e funk e anche un aspetto accattivante, Give Me Just a Little More Time con The Chairman of the Board, anche così il soprannome di Moses Big Mo Malone. Perché Moses Malone in ambito accademico? Perché Moses Malone è il primo giocatore che non fa il college, arriva direttamente nella NBA. Sarà un caso, tanto più che verrà vietata questa scelta, fino all'arrivo di Darryl Dawkins qualche anno dopo. Vincerà la causa perché denuncerà la NBA per tale limitazione. Vincerà la causa, dirà, io ho bisogno di lavorare. Considerato negli anni di vero basket, negli anni in cui la rivoluzione cestistica è protagonista, l'unico centro secondo solo a Karim Abdul-Jabbar. Ecco, io qui ho le mie opinioni, per me era Robert the Chief Parrish, però non vado a certo a criticare il grande Moses, il più grande rimbalzista offensivo di tutti i tempi. Pensate che la sua carriera, dopo questa scelta di non fare il college, e ne pagherà le conseguenze tecnicamente parlando, perché arriva a giocare nella ABA per gli Utah Stars, dove sì, indubbiamente si vede un talento da questo filiforme ragazzo, poi prenderà peso, ma questo giovanissimo non risulta essere poi questo talento. Bravo chi ha creduto in lui, chi ha portato attenzione per farlo migliorare, farlo diventare poi Moses Malone. Hold you in his armchair, you can feel his disease, come together. Il rimbalzo offensivo è la singola fase più difficile del gioco del basket e Moses Malone, secondo me, è il più grande rimbalzista offensivo di sempre. È la dichiarazione di Red Auerbach, che è stato il Celtics per eccellenza, il grande rosso, Red Auerbach. Abbiamo un aspetto didattico di impegno e un aspetto economico che volevo sottolineare con un'esperienza a me capitata direttamente, quindi è per quello che voglio portare a attenzione, grazie, quello che è stato realmente, che è realmente accaduto. Questa volta magari facciamo anche nomi e cognomi. Iniziai i miei percorsi nell'allora Virtus in Udine con questo allenatore, secondo me devastante, veramente una figura negativa ai massimi livelli, e durante una preparazione atletica particolarmente intensa, una cosa sfiancante, un mio compagno ebbe una crisi talmente forte che lo accompagnai in bagno e urinò sangue. Sto parlando di bambini tra gli 11 e i 12 anni. Il compianto Oscar Bianchi praticamente si ritrovò anche lui in bagno con una scarica di dissenteria che era acqua. Scusate i particolari che a quest'ora non sono esattamente così consoni alla prima colazione in diretta. Io ebbi una crisi di vomito e con un modo non tragico ma molto serio andai dall'allenatore e mi dissi ma si rende conto, ma ti rendi conto, ma sono serio, non sto facendo polemica, semplicemente sto mettendo davanti al fatto compiuto, cioè ci rendiamo conto. La risposta è stata questa: se non va bene vai in fortitudo, non paghi e fai quello che vuoi. Parole testuali di Gianfranco Pilotti, possa bruciare all'inferno. Grazie intanto per stemperare questo momento così di tensione per quello che riguarda un precedente nell'ambito di preparazione atletica in quello che era il settore giovanile di una grandissima squadra. Ecco, in questo caso però porto un aspetto positivo: per me pagare una retta se si va e si intraprende un determinato percorso sportivo in una società che ha la prima squadra nella massima o nelle massime serie, insomma, è abbastanza criticabile. Ciò non giustifica la tortura. Questo non giustifica la tortura, ci mancherebbe, anzi, tutt'altro. How it warms my heart and soothes my mind. I built my world around you. Yesterday I found you. I wish I could be behind every man. A woman like you to help him stand. Moses Malone mi ricordo che mi impressionò per la sua aggressività, non nel senso di cattiveria, per come aggrediva il canestro e la palla. Grazie Lino, grazie Wolf. Eh sì, a me invece ha impressionato da subito per la sua capacità intuitiva di comprendere dove sarebbe caduta la palla dopo un tiro sbagliato di un suo compagno. Lui sì, il più grande rimbalzista offensivo di sempre, oltre che per queste caratteristiche che tu hai citato, anche per queste intuizioni, E non era un grande saltatore, grande limite delle mani piccole, ecco, però migliorata la tecnica, arrivato fisicamente a essere anche più imponente. Lui non altissimo, 2,08 metri, porta a Filadelfia il titolo, resta un grandissimo giocatore. Per quanto riguarda la relazione scuola sport, lui non ha fatto il college. On a farm way back up in the woods. I was so ragged folks called me Patches. Papa used to tease me about it, but inside he was hurting cause he'd done all he could. My papa, what a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education daddy never had. But he did wonders when the times got bad. But the little money from the crops he raised just barely paid the bills he made. Tried to get up, life would kick him back down. But that day, Papa called me to his dying bed, placed his hands on my shoulders, and in tears he said, "It's about I'm depending on your son to pull the family through. My son is all left up to you." 2 days later, Papa passed away. I became a man that day, so I told Ma I wanted to quit school. But she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt like I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. Then I remembered what my Daddy said, tears in his eyes, on his dying bed. rain came. Di tutti i tempi, uno che non aveva, così come si dice, la dinamite nelle gambe. Difatti Malone, grazie a un posteriore importante e alla voglia di andarci, il rimbalzo lo prendeva ad altezza della testa. Non c'era bisogno di fare salti clamorosi, importante è essere convinti, avere senso di posizione. Ha dimostrato per tutta la carriera, portando a casa una valanga di rimbalzi, soprattutto quelli offensivi. Ecco, bravo Paolo, hai precisato. Io ho parlato dell'intuizione, di intuire, capire, comprendere dove sarebbe caduto il rimbalzo del tiro sbagliato dal compagno. Si può riassumere con un grande senso di posizione. Ma come parliamo di scuola e di studio di sport, e hai citato Elgin Baylor, che non ha avuto risultati, ma proprio con la scuola è stato un problema. Moses Malone, che non è andato al college. Sì, ho portato questi esempi per un semplice motivo, perché sono Moses Malone, con Kareem Abdul-Jabbar considerato il più grande centro del periodo di vero basket, e Elgin Baylor, un giocatore, un cestista inarrivabile, e sono due, sono loro due, e pensate quanti ce ne sono, eh? pensate a quanti invece non sono Elgin Baylor e Moses Malone, per cui ribadisco, lo studio prima di tutto. Aggiunge che comunque aveva anche bella tecnica. Recentemente ho visto uno speciale con Dr. J e giochi a due tra loro spettacolari. Indubbiamente ha messo insieme un giro e tiro, un avvicinamento a canestro, ha costruito queste parti fondamentali per il gioco spalle a canestro, che sono arrivati con il lavoro, sono arrivati con un'attenzione da parte di preparatori atletici, allenatori. Indubbiamente, diciamo che se l'è costruita, ecco. Io ho visto dei video con gli Utah Stars che un po' in difficoltà, ecco. Esatto, perché dopo, col passare degli anni, molti fecero il salto high school professionismo. Per molti andò bene, tipo Kevin Garnett, Kobe Bryant, ma anche per tanti altri non andò molto bene. No. E alcuni veramente si sa più che fine abbiano fatto, senza uno straccio di diploma o di laurea, e senza neanche uno straccio di contratto da professionista in qualsiasi parte del globo della Terra. Esattamente Paolo, questa conclusione direi che porta il contrappunto al Mood Groove di oggi. Sono le 8:50 minuti, vorrei tenere questo piccolo spazio. Last but not least, oggi è martedì, sta iniziando il nostro palinsesto definitivo, ci sarà la prima puntata di stagione 2024-2025 con Andrea Gozza, la curatela di Andrea Gozza. Il vinile della settimana diventa poi ispirazione a quello che è stato un format di qualche anno fa, in cui si dava la possibilità ad ascoltatrici ed ascoltatori di ascoltare mixare o anche di registrare su musicassetta un vinile senza interruzione da parte del DJ, dello speaker o anche dalla pubblicità, e quindi un ascolto integrale. Certo, adesso vi sono altre possibilità che per me sono anche non proprio positive per il mondo della musica, e siccome Andrea, anch'io ci teniamo, e tanti altri redattori di Radio Città Fujiko, a una presenza musicale che non sia liquida, ogni settimana al martedì 2 ore, una dedicata a un vinile e l'altra ora dedicato all'altro vinile scelto da Andrea Gozza per questo format del martedì da non perdere, con tanto nei tempi di passaggio tra lato A e lato B commento, notizie e approfondimenti sull'ascolto protagonista per quello che è stato selezionato. Mi raccomando, dopo la rassegna stampa, dalle 10.30 alle 12.30, tanta musica in ascolto integrale, il vinile della settimana, riportato da Andrea Gozza. Le sue selezioni sono sempre molto, molto belle. Ecco, non trovo altri aggettivi. Bellissime, se vogliamo, di ogni gusto. C'è uno spazio per ogni palato, sempre che sia raffinato in ambito musicale e rigorosamente dal vinile. Due parole anche su un atleta recentemente scomparso, Mitchell Wiggins. Ecco, siamo sempre in ambito di rivoluzione cestistica, confini con la normalizzazione. Una guardia tiratrice, indisciplinato, è stato allontanato dalla Lega per motivo di abuso stupefacenti. Mitchell Wiggins ha giocato negli Houston Rockets, una guardia tiratrice che ha iniziato la carriera a Chicago, capacità atletiche incredibili, giocatore moderno, una mano molto efficace e un istinto per l'uno contro uno molto molto forte. Ci lascia pochi giorni fa, va ad aggiungersi al parquet celeste l'immagine e la figura di Mitchell Wiggins. E alle 8:54 minuti, mi allungo un attimo, eccomi qua per portare questo vinile da Leuven 8. Torniamo in California dopo aver ascoltato una breve selezione dei Chairman of the Board dedicata a Moses Malone. Come sigla di conclusione per questo Breakfast Club di martedì 17 settembre 2024, Liberi Dentro seguirà dopo la pubblicità, rassegna stampa curato e condotto da Alfredo Pasquali. L'appuntamento con il Mood Groove va a martedì prossimo. Ringrazio Paolo Nofri per la palla a due doppia e gli spunti che hanno portato i due protagonisti di oggi, Elgin Baylor e Moses Malone. Ci risentiamo domani puntuali alle ore 7 con il mercoledì magico e letterario dei 103.1. Dal vostro William Piana, con un caloroso abbraccio, l'appuntamento alle super mattiniere e i super mattinieri di Radio Città Fujiko, e a domani. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon martedì. We'll